Mamma guarda la ranza che lo, la cue che lo, e vuota al pe. E mamma guarda che razza di su, la mena più, e vuota al pe. O oh, Adriana, vuole battutana, vuole battutana, per dai al pe. O oh, Adriana, vuole battutana. Ma porto un pitcher de vino e un campanello della coppia. E mamma ho spinto il pitcher e su che teier ha tagliato te. O Adriana, vorrei farti lontana, vorrei farti lontana, per dare al te. O Adriana, vorrei farti lontana, vorrei farti lontana, per dare al te. Mamma guarda tutto quel che ho tagliato, quel fiore stella anche dopo un mese. E mamma guarda tutto quel che ho segato, un figliolo lo siga, e che te dire. O oh, Adriana, vorrei battutana, vorrei battutana, per caia a te. O oh, Adriana, vorrei battutana.